Giovanni da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Secondo me il gol di Matri non era gol. Il gol di Matri, cioè quello dell'1-1? Era fuori gioco, secondo me. Quello convalidato? No, quello di prima. Ah, quello di prima. E secondo come... me non era gol, perché ho visto le immagini bene, ho visto che Abate era un po' più avanti di Matri, appunto. Vabbè, e Matri era un po', aveva la gamba sinistra un po' più a sinistra, diciamo. Cioè la gamba sinistra l'aveva, mi faccia capire bene, perché dato che questo è un colpo di scena, Giovanni, che credo potrebbe preludere a una rilettura davvero di questo... Sì. Come aveva la gamba sinistra? Si riguarda bene quel... Sì, guardi, già anche stasera in questa trasmissione di cui si parlava prima, no, ho già disdetto tutti gli impegni, eccetera. Però mi faccia capire bene com'era questa gamba sinistra rispetto a come invece l'abbiamo vista finora. Perché io ho visto bene, cioè il guardalinee Romagnoli. Sì. E... aveva ragione quando ha alzato la bandierina, dicendo che rigiochiamola, Giovanni, rigiochiamola, dia retta a me, che forse è l'unica soluzione possibile.